Gli uomini seguono soltanto chi regala loro illusioni. Non ci sono mai stati assembramenti intorno a un disilluso. Ora che il sipario cala sul palcoscenico d'orrori, nasconde teste a spicchi d'aglio che riflettono immagini da altri spicchi. Non ricordiamo la sua genesi, ma alimentata dall'iperrealtà, rimbalzerà all'infinito. Non conosco un evento che spezzerà la catena. Ascolta, voltati, guardami. Ascolta, voltati e guardami. Ascolta, voltati e guardami. Ascolta, voltati e guardami. Di terrore appare. Una promiscuità oscena assilla e penetra. Senza incontrare nessuna resistenza e nessuna aura. Siamo aperti a qualsiasi esperienza e viviamo nella più totale confusione. Speranza di disillusione. Ascolta, voltati, guardami. Ascolta, voltati e guardami.